Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione che cerca di raccontarvi come la rete cambia la politica e come voi potete provare a cambiare la politica con la rete. Vi ricordo come sempre i nostri contatti: Vota Antonio R24 e l'account Twitter Vota Antonio R24 e anche la nostra pagina Facebook. Potete scriverci a votaantonio@radio24.it, potete seguire anche me su Twitter se volete, Simone Spezia, l'account si scrive con la T. Iniziamo come sempre da qualche notizia che abbiamo scovato questa settimana. Uso improprio o improvvido di un account Twitter. Questa settimana ci occupiamo del presidente della Calabria, Giuseppe Scopelliti, che da una settimana appunto continua a polemizzare con l'utente MicPhil77, il quale lo attacca, gli chiede perché non si dimette, lui risponde, l'altro gli dice: i traditori invece di lottare e rendere la Calabria sempre più grande o libera siedono in giunta nella sanità con te, e lui gli risponde: parli di tua madre? Oh, è una vicenda tutta interna, perché la madre dell'utente lavora in qualche modo per la regione. Suggeriamo però a Scopelliti di trattare le questioni personali o professionali in altro luogo. Sono Roberto Formigoni. Saremo tutti insieme, amici, e li batteremo sempre. Li batteremo sempre. Sempre. Sempre. Li batteremo sempre. Nella settimana della caduta della giunta di Roberto Formigoni, scusate ma non resistiamo, anche se la vicenda è nota, la strategia sul web del presidente della regione Lombardia è letteralmente incomprensibile. In particolare i video sono stati definiti da Bertram Nissen, trovate il suo articolo su www.00.com, uno dei più straordinari casi di autodegradazione mediatica messi in scena da un politico. Quelle che vi stiamo facendo sentire, che continuiamo a trovare irresistibili, sono le suonerie liberamente scaricabili da formigoni.it. Sono Roberto Formigoni. Saremo tutti insieme, amici, per dare opportunità di lavoro a tutti quanti ne hanno bisogno. Segnalazione breve per un nuovo sito, adesso matteorenzi.it. Ci trovate scritto: tasse, pensioni, scuola, lavoro, ecco come Matteo Renzi rivoluzionerà l'Italia. Però se provate a cliccare su leggi, il tasto scapperà via per tutto lo schermo. Elemento interessante, proprio a proposito di Renzi e di Bersani, un pezzo della discussione di ieri, della quale vi abbiamo parlato anche nei GR, sulla partecipazione di Renzi alla cena col finanziere Davide Serra, si è svolta su internet, su Twitter per essere precisi. Scrive Renzi: caro P. Bersani, su banche, finanze e trasparenza accetti un confronto pubblico? Non importa andare alle Cayman, ok una casa del popolo, ti va? Risponde Bersani: non ho difficoltà a discutere di tutto, non ci siamo solo noi e faremo il confronto secondo le regole che diranno i garanti. Bene così. A proposito di politici in rete, vi segnaliamo politicount.it. Come sapete, con Riccardo Puglisi ogni settimana, lo faremo anche più avanti, analizziamo singoli personaggi o singole storie. Politicount dà un quadro più generale, esclusivamente quantitativo. Troverete classifiche della presenza complessiva in rete. Più citato tra motori di ricerca e social è sempre Silvio Berlusconi, seguito da Nichi Vendola e Matteo Renzi, poi Mario Monti, De Magistris, Di Pietro e Settimo Bersani. Per chiudere la top 10, Vittorio Sgarbi ottavo, Mara Carfagna nona, decima Nicole Minetti. Ed è venuto il momento, come sempre, di dare un'occhiata più approfondita alla settimana politica, analizzarla, capire che cosa è successo e soprattutto rispondere alle vostre domande. Potete sempre scrivere a il.@radio24.it. Il punto di Stefano Folli. Mettiamo un po' di ambientalismo, perché va di moda. Poi siamo un po' di sinistra, ma come Blair, che è sufficientemente lontano, diciamo, per lei. Poi siamo anche un po' eredi della tradizione del cattolicesimo democratico. poi ci mettiamo un po' di giustizialismo che va di moda, abbiamo fatto un nuovo partito. Lo chiamiamo in un modo che non dispiace a nessuno, perché Verdi è duro, sinistra suona male, democratici siamo tutti ed è fatta. E chi può essere contro, diciamo, un prodotto così straordinariamente perfetto? C'è tutto dentro. Auguri. Però io non ci credo. Questo è Massimo D'Alema, in tempi non sospetti, ripescato qualche giorno fa da Luca Sofri, direttore del Post, sul suo blog, che trovate appunto sul sito del Post. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci chiede un ascoltatore, si chiama Giovanni, ci scrive dalla provincia di Roma e dice: ma insomma, ancora stiamo a discutere di D'Alema? Ma sai, il problema non è tanto D'Alema, il problema è una classe politica del centro-sinistra che in questi 20 anni ha collezionato più fallimenti che altro, perché questa registrazione che avete mandato in onda vuol dire che D'Alema credeva poco al Partito Democratico, in quanto lo vedeva una mescolanza di culture che stava male insieme. Tutti i torti non l'aveva, per la verità, però non sono stati capaci questi giovani, allora erano giovani, adesso non sono più giovani, dirigenti del PD, di creare una vera forza socialdemocratica. E quindi adesso questa grossa crisi di questa dirigenza è il prodotto finale di tanti anni in cui non si è mai riuscito a imboccare una strada con certezza. Un paio di battute trovate sulla rete, su Twitter, su questa vicenda. Innanzitutto una di Guido Crosetto, parlamentare del PDL, che dice: Renzi è molto più bravo, lo ammetto, fa casino per 4 mesi nel PD e Veltroni e D'Alema non si candidano. Io 2 anni nel PDL e arriva a Briatore. Questa, decisamente... questa è molto carina. Questa è molto carina, però dimostra una cosa, che bene o male il centrosinistra sta facendo parlare di sé, perché ha avviato una qualche forma di rinnovamento. Magari più male che bene, ma insomma, la destra fa parlare di sé soltanto per i suoi litigi inconcludenti o per soluzioni strampalate come quella a cui accenna Crosetto. C'è una differenza, e questo credo venga anche registrato poi dagli elettori, i quali sono molto sfiduciati, guardano al sistema politico con grande diffidenza, però probabilmente coglieranno una differenza tra un centrodestra nel caos e un centrosinistra che a modo suo sta cercando di rispondere alla sfida di Renzi. Poi ci torneremo, perché ci sono nuovi sondaggi ancora più pesanti per il PDL, e magari torneremo anche sulle questioni che riguardano il PDL. Vi cito un'altra battuta su D'Alema, che non è male. Come sapete, in settimana c'è stata una raccolta firme, cioè sull'Unità sono apparse 700 firme, che hanno 700 persone che hanno firmato perché D'Alema si ricandidi. Nella battuta di Andrea Scanzi dice: credevo di avere una buona conoscenza delle perversioni, ma mi mancava la più estrema, firmare per esprimere solidarietà a D'Alema. Anche questa, tutto sommato, non è male. Stefano, riesci a fare una previsione su come si chiuderà sto scontro? Ma sul rinnovamento delle liste, secondo me, si sta già chiudendo, nel senso che le liste del Partito Democratico presenteranno volti abbastanza nuovi, diciamo, molti del vecchio gruppo dirigente usciranno di scena. Però la questione di fondo non è tanto il manifesto per D'Alema, io l'ho trovato una pessima idea, però la questione è che alla fine, in un sistema normale, e noi non abbiamo un sistema normale, dovrebbero essere gli elettori a decidere da chi vogliono essere rappresentati in Parlamento. Se vogliono essere rappresentati per 50 anni da un stesso personaggio e lo votano con trasparenza, naturalmente non comprando i voti dall''ndrangheta, beh, hanno il diritto di farlo. Il problema è la competizione elettorale, che da noi non c'è, perché ci sono le liste bloccate. E allora le liste bloccate portano poi periodicamente al tema della rottamazione, perché non c'è un altro modo di scegliere nuovi dirigenti, di cambiarli. La questione è una decente legge elettorale che noi non abbiamo e che altri paesi, l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, invece hanno. Ci scrive un altro ascoltatore, sempre a proposito di PD, poi passiamo ad altro, si tratta di Augusto, dalla provincia di Piacenza, che ci dice: Renzi sembra essere uscito, cosa degli ultimi 2 giorni, proprio dallo schema della rottamazione. Questo probabilmente sarà un beneficio. Ma Renzi, con la rottamazione ha ottenuto un risultato, io l'ho scritto anche sul Sole. Se insiste su quel tema lì, lui va incontro a una sconfitta, nel senso che il suo tema l'ha imposto, il PD lo ha in qualche modo fatto proprio, adesso si deve cambiare spartito. Allora mancano alcune settimane al voto nelle primarie e lui deve scendere da questo sentiero tracciato, deve uscire da questo sentiero tracciato e trovare altri temi che abbiano la stessa capacità di colpire l'attenzione dell'opinione pubblica, come sicuramente è stato quello del ricambio della classe dirigente. Non è facilissimo per Renzi, diciamo che nel momento in cui Bersani e gli altri gli hanno un po' sfilato la carta del rinnovamento, lui adesso deve dimostrare di avere al suo arco delle altre frecce. Infatti sta cominciando a parlare di programma, ma insomma, certo, non ha la stessa carica, diciamo, di impatto sull'attenzione dell'opinione pubblica che aveva la questione delle candidature. Ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante molto legge. Modesto, ma hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono le liquidazioni di amministratore dell'Enel, delle ferrovie. Strepitoso Mario Tassone dell'UDC, intervistato da Alessandro Milan a 24 Mattino. Intervista che poi lo ha condotto alle dimissioni da vice capogruppo dell'UDC. E prendiamo questo tema, Stefano, per parlare dell'ascesa di Grillo. Insomma, c'è un sondaggio SVG che lo dà al 21%, addirittura, veramente tantissimo, con il PDL tra l'altro che continua la sua caduta libera, insomma, sarebbe intorno al 14%. Ma guarda, io non mi a parte le cifre, ma non mi stupisco di questa ascesa, perché lo scollamento che c'è tra il sistema politico e l'opinione pubblica è terrificante e continua ad allargarsi questa frattura. E quando questi personaggi come Tassone danno prova di un così grande masochismo e si immolano davanti ai microfoni quasi sempre della nostra Radio 24, alla fine dimostrano l'assoluta incapacità di reazione e quindi la mancanza di una moralità di fondo del sistema. È come se si stessero proprio come disponendo ad accettare che alla fine Grillo prenda tutto il piatto. Non so quanto prenderà Grillo alle elezioni, so però che non c'è da questa parte del barricata, da parte di un sistema politico che dovrebbe dare una prova di reazione, non c'è nessun tipo di capacità di iniziativa, e questo fa sì che man mano che ci si avvicina al voto l'eventualità che le liste antisistema, le liste Grillo possono avere un grande successo e con questo porre un'ipoteca forte sulla prossima legislatura, queste probabilità aumentano. Per quanto riguarda il PDL, appunto, l'altra faccia della medaglia, un partito senza alcuna direzione, oggettivamente. Questa settimana c'è stata la polemica della Santanchè, c'è chi dice che sia stata spinta dal Cavaliere, insomma, a parlare di, anche lei, di rottamazione, di azzeramento del partito. Fatto sta che, insomma, si è messi malissimo là. Ma lì è che è venuto meno Berlusconi come elemento di coesione di quest'area, e non c'è una cultura comune, non c'è una visione comune dei problemi, non c'è una classe dirigente che sia stata formata, salvo rare eccezioni, in questi anni, e i risultati sono questi. È un'area frantumata che ha quantomeno due linee, diciamo, la linea filoeuropea che vuole poi sostenere Monti, eccetera, la linea di Alfano, no, di questi di Frattini e alcuni altri di loro, e poi c'è la linea populista, anti-europea. Io ho scritto che assomiglia molto alla linea di Marine Le Pen in Francia, no? Che insegue il sentimento e il rancore anti-europeo di una certa opinione pubblica. Berlusconi è completamente assente da tutto questo, manovra dietro le quinte in forme ambigue, ma il risultato finale è la dissoluzione del centrodestra, che è stato l'area politica che ha dominato la politica italiana per 18 anni. Questo crea uno squilibrio, crea un vuoto. E la domanda è: ma chi occuperà questo vuoto? Al momento ancora non lo sappiamo. A proposito di PDL, di situazioni tese all'interno del PDL, certo un ruolo lo gioca anche la situazione in Lombardia, poi ne parleremo più avanti, perché così come ne abbiamo parlato prima su come si comporta Formigoni su internet, ne parleremo più avanti perché abbiamo un'analisi su Formigoni su Twitter. Detto ciò, è chiaramente uno specchio anche della situazione del PDL e della situazione difficile del centrodestra, insomma, al di là del coinvolgimento della Giunta negli scandali. Assolutamente, perché la Giunta della Lombardia è un po', insomma, emblematica ed è poi una delle regioni più importanti d'Italia. Quindi quello che succede in Lombardia in questo senso è davvero un laboratorio, riflette una situazione politica più generale. E io penso che in Lombardia oggi il problema sia la Lega. La Lega deve decidere cosa fare. La Lega sulla Lombardia si gioca tutto, si gioca soprattutto tutta la credibilità di Maroni. Se Maroni sbaglia la partita in Lombardia, la vedo molto male per il futuro della Lega, che per tanti anni è stato un po' il partito chiave degli equilibri nel nord. E quindi io credo che Maroni cercherà di mantenersi stretta l'alleanza con il PDL e cercherà di non perdere questa fondamentale regione. Riuscirci però è molto difficile. Il caos lombardo provoca una serie di conseguenze che possono davvero destabilizzare quello che rimane del vecchio asse del nord su cui si è imperniato il centrodestra. Mettiamo insieme l'ultimo tema con i precedenti due che abbiamo trattato, perché ieri è stato indagato per corruzione il coordinatore del PDL a Milano, quindi insomma siamo sempre nell'ambito del PDL e della Lombardia, però Stefano, è arrivato finalmente questo decreto contro la corruzione. Sì, il decreto contro la corruzione va bene. Io penso che la legge non è perfetta, naturalmente ha subito anche alcune critiche fondate, però è un segnale che viene dato agli italiani ed è giusto che sia così. Io penso che la miglior cura contro la corruzione sia alla fine però una giustizia che funziona. Tribunali che emettono sentenze in tempi certi, pene che vengono scontate. Insomma, chi lavora in Italia, chi investe in Italia deve sapere che esiste una giustizia che è in atto, che funziona, che non ha tempi eterni. Questo è davvero la miglior viatico per combattere la corruzione. Poi le leggi, va bene, le leggi sicuramente sono importanti, ma quello che serve soprattutto è un modo nuovo di intendere il rapporto fra il cittadino e la magistratura. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Io grazie, vi ricordo ancora che potete scriverci il punto è radio24.it per fare le vostre domande a Stefano Folli. Naturalmente vi risponderemo come avete sentito. In questa terza parte di Voto Antonio, come sempre, apriamo parlando di numeri e di numeri su Twitter. Lo facciamo come sempre con Riccardo Puglisi. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Andiamo sui due uomini della settimana. Di gran lunga. Di gran lunga. Roberto Formigoni e Massimo D'Alema, il quale Massimo D'Alema non ha l'account Twitter e però è stato tra le tendenze principali di Twitter almeno per due o tre giorni questa settimana. Naturalmente, come sapete, ne abbiamo già parlato, per la polemica con Renzi. Inizierei però dal presidente della Lombardia, Riccardo, che sembra aver intensificato la sua attività sui social network. Il vantaggio / svantaggio di Formigoni rispetto ad D'Alema è che ha un account Twitter. In termini comparativi rispetto, per esempio, a un Pisapia, Formigoni ha all'incirca un 35.000 follower, Pisapia ne ha 67.000-70.000. Sicuramente Formigoni ha intensificato la sua attività su Twitter, perché a settembre all'incirca ha mandato un 260-250 tweet. Facendo conto solo a valere fino a metà ottobre, sostanzialmente sono già 250 tweet. Quindi le vicende che sono iniziate in particolare con l'arresto di Zambetti il 10 ottobre hanno chiaramente indotto Formigoni a intensificare. Lo hanno scatenato, anche con modalità piuttosto nervose. È interessante perché ho provato a fare una cosa, a parte contare, diciamo, i tweet per giornata, si può anche andare a vedere qual è la lunghezza dei tweet medi giorno per giorno per Formigoni. Una cosa che si nota abbastanza bene statisticamente è significativo che col tempo, quindi andando vicino alle ultime date, in buona sostanza i messaggini, i tweet di Formigoni sono sempre più corti. Che cosa c'è dentro i tweet di Formigoni? Come al solito lo sapete, ogni settimana andiamo a vedere le parole che si possono trovare, almeno le parole che ci sono più frequentemente. Cosa troviamo? Beh, come premessa direi che Formigoni ogni tanto dialoga con gli utenti, ma non molto, perché soltanto il 15% dei casi lo fa, non ritwitta messaggi altrui, quindi è solipsistico, va avanti con la sua conversazione. Il messaggio che è più stato ritwittato, mandato da lui, è il seguente: su di me sono state scritte tonnellate di falsità, pagheranno i danni, diventerò milionario e darò tutto in beneficenza. Questa è la frase che è stata lanciata da Formigoni, è stata rilanciata da tante persone per evidenti ragioni, per la forza della frase. Per quanto riguarda il tipo di parole che compaiono, diciamo che compaiono parole di senso politico e senso istituzionale, quindi la Lombardia, regione, anche l'aspetto personale, sono... l'aspetto istituzionale dell'Expo, quindi 2015, compare governo, regioni, Milano, palazzo, presidente, cittadini, siamo, incontro, abbiamo, quindi c'è questa idea, diciamo, di porsi come la, almeno questa è la mia interpretazione, di porsi come la persona che è governatore della Lombardia, ma contemporaneamente mostrando il fatto che lo fa, nel senso, come servizio agli altri. Questo è il senso del discorso. Ecco, Riccardo, abbiamo fatto questa settimana anche una ricerca sulla parola Formigoni, in realtà. Esattamente, qua si vede veramente come l'esplosione di un fatto di cronaca, ovvero, come dicevo prima, l'arresto di Zambetti porta a un'esplosione di tweet sull'argomento, perché sostanzialmente prima dell'arresto si avevano tipo 250, il 9 ottobre si avevano 250 tweet al giorno sul tema, il giorno dopo sono praticamente 4.500, poi diventano 8.500, quindi la notizia esplode in termini di numeri. E dall'altra parte però un conto è quello che dice Formigoni stesso, un altro conto è quello che dicono gli utenti che nominano Formigoni. E in questo caso chiaramente viene nominato Formigoni, vengono ritwittati messaggi che forse fanno più ridere sul tema, compare la parola Lega, compare Lombardia, compare Via, compare PDL, compare Deve, evidentemente quelli dopo dimettersi, Giunta, Maroni, quindi chi potrebbe sostituirlo, poltrona, che evidentemente non è una parola istituzionale ma una parola che indica la posizione. C'era anche un tweet sul fatto che Formigoni è un essere metà uomo, metà poltrona, quindi diciamo questa è sicuramente la parola, compare anche per quello, perché questa battuta specifica un po' anticasta è stata ritwittata parecchio. Veniamo, esatto, all'altro uomo della settimana, che è sulla breccia non da meno anni di Formigoni, insomma, Massimo Senz'altro D'Alema, no. Il quale si diceva non ha un account Twitter, però abbiamo fatto una ricerca sulla parola chiave D'Alema, cosa ne caviamo? Esatto, caviamo ancora una volta che nel momento in cui D'Alema entra nella polemica con Renzi riguardo appunto all'andamento delle primarie, con l'idea che Renzi si potrà fare del male, eccetera, eccetera, c'è anche nel suo caso un'esplosione dei tweet, che sostanzialmente diventano 10 volte tanto. Questo è il tipico fenomeno, io vedo questo tipo di fenomeni, che si arriva a 10 volte tanti tweet e chiaramente ancora una volta si tratta di, i messaggi più ritwittati sono quelli con delle battute che fanno divertenti, con l'unica eccezione del messaggio di Renzi stesso su Twitter rimanda alla sua dichiarazione di risposta ad Alema. Presto i messaggi più ritwittati sono chiaramente quelli di tipo politico, quindi per esempio ce n'è uno spesso proveniente da giornalisti, per esempio ce n'è uno che ha avuto molto successo, che è di Luca Sofri, che dice D'Alema mi candido solo se me lo chiedo io, e varianti su questo tema, e quindi le parole sono ancora una volta correlate al suo destino non chiaro. Perfetto, quindi altri nomi, Veltroni, Renzi. Esattamente, i nomi compaiono, quindi quando il politico parla, tanto per trarre forse delle indicazioni generali, quando il politico parla tende a non parlare di sé sostanzialmente, quando invece sono gli altri che parlano mettono insieme le cose nel contesto, quindi chiaramente compare Renzi, compare Veltroni, compare Crosetto che ha fatto dei commenti dall'altro lato riguardo a quello che è successo, quindi c'è un dialogo, compaiono vari nomi relativi al tema degli altri, diciamo, esponenti del PD, compare anche la parola per esempio rottamare, che è quella che è più collegata al punto di vista, che è quella specifico. Centrale. Esatto. Grazie anche per questa settimana, Riccardo Puglisi, ci ritroviamo la prossima come sempre. Perfetto, grazie a te Simone, a presto, buona giornata a tutti. Ed eccoci nell'ultima parte di Votantonio, nella quale, così come l'abbiamo fatto la scorsa volta, non potevamo evitare di andare sul nuovo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, l'attuale presidente naturalmente, Barack Obama, e Mitt Romney, un dibattito che ancora una volta, è quasi inutile dirvelo, si è svolto anche sui social network, nel senso che molte persone hanno seguito il dibattito in televisione e l'hanno commentata in diretta sui social network, in particolare su Twitter, che come sapete, come vi abbiamo già raccontato, è un mezzo che si presta molto più semplicemente, molto più facilmente a un tipo di lavoro di questo genere. Ne parliamo con Francesco Costa, giornalista del Post. Francesco, buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno. E ne parliamo iniziando, se volete, dalla cosa più divertente, insomma, quella che ha fatto ridere un po' di più, sulla quale si sono fatte più battute, questa. All the applicants seem to be men. And I went to my staff and I said, how come all the people for these jobs are all men? They said, well, these are the people that have the qualifications. And I said, well, gosh, can't we find some women that are also qualified? And so we took a concerted effort to go out and find women who had backgrounds that could be qualified to become members of our cabinet. I went to a number of women's groups and said, can you help us find folks? And they brought us whole binders full of women. I was proud of the fact that after I allora, staffed binders my cabinet full staff, of women, Francesco, come possiamo York, tradurlo esattamente? Ma letteralmente una cosa tipo raccoglitori pieni di donne. Ok, perché ha bisogno di donne a portare in politica, dice Romney. Sono andato da associazioni che si occupano di questo e mi hanno portato, come potremmo dire, insomma. Sì, delle cartelle piene di curriculum di donne. Era stata una dichiarazione molto goffa, perché in realtà Romney era stata chiesta una posizione riguardo la parità di stipendi tra uomini e donne a parità di incarico, che è un tema molto sentito negli Stati Uniti. Lui ha totalmente evitato di parlare di questa cosa, ha parlato della flessibilità degli orari e poi, per mostrarsi a modo suo, diciamo, aperto alla questione femminile, ha detto che quando era in Massachusetts ha chiesto al suo staff di trovargli delle donne da mettere, insomma, in posti di rilievo, e questi gli hanno portato dei raccoglitori pieni di donne. E questa espressione qui, raccoglitori pieni di donne in inglese, è diventata in pochissimo tempo un hashtag a cui sono state associate centinaia di battute, di gag, di giochi di parole. Siti compresi, c'è un Tumblr su questo. Siti no? compresi, c'è un Tumblr con immagini, fotomontaggi. Ce n'è uno particolarmente divertente in cui c'è Bill Clinton che dice: raccoglitori pieni di donne, eccomi. Ma anche pagine su Facebook, account su Twitter. E oggi Associated Press ha diffuso l'immagine la foto di quel raccoglitore lì, cioè del raccoglitore con tutti i curricula delle donne che a Romney venne consegnato in quella circostanza. Fantastico. Andiamo ad un altro aspetto, insomma, un altro momento centrale, o almeno così lo è stato vissuto appunto sui social network, sulla rete, che è questo. There were a whole bunch of oil companies. I had a question, and the question was how much did you cut them by? How much did you cut them by? I'm happy to answer the question. Ed è il momento della rottura di un rito, se vogliamo, no? Il momento nel quale Romney fa direttamente domande al presidente, si interrompono a vicenda. Sì, la rottura del rito è la rottura delle regole che i candidati stessi avevano contrattato e avevano firmato prima dei dibattiti. Ed è stato il momento in cui sui social media, per qualche secondo, siamo rimasti tutti fermi, perché è successo qualcosa che nessuno si aspettava. E poi ci sono state delle reazioni di sorpresa e di commento a quello che era uno spettacolo, una cosa completamente fuori programma. I candidati che si interrompono, che si fanno domande a vicenda, che si parlano l'un l'altro. Nel format di questo dibattito poi i due candidati erano in piedi, quindi si fronteggiavano anche fisicamente, faccia a faccia, si avvicinavano. È stato un momento molto teatrale ed è stato sottolineato con reazioni all'inizio di grande stupore sui social media. E ora veniamo ad un altro elemento, ed è un altro elemento che ha fatto molto discutere, per certi aspetti anche un elemento decisivo dello stesso dibattito, ed è questo. You said in the Rose Garden, the day after the attack, it was an act of terror. It was not a spontaneous demonstration. Is that what you're saying? Please proceed, Governor. Please proceed, Governor. Barack Obama che vede che Romney si sta ficcando in una trappola sostanzialmente, dicendo che Obama il giorno dopo l'attacco a Bengasi non ha mai detto che era un attacco terroristico, mentre invece Obama lo disse effettivamente, si sta ficcando in una trappola e gli dice: Proceda, governatore. Tra l'altro, non sapendo che un attimo dopo sarebbe arrivato Obama un grosso, diciamo, aiuto da parte della moderatrice del confronto, perché la moderatrice stessa, anche lei, a sua volta rompendo una parte dell'accordo che però lei non era siglato, quindi insomma non aveva obblighi, è intervenuta per dire effettivamente Obama ha ragione, lui disse questa cosa il giorno dopo, facendo una specie di fact-checking in diretta durante il dibattito. Bisogna dire anche un attimo dopo la moderatrice dà anche ragione a Romney, dicendo che effettivamente l'amministrazione Obama ha avuto bisogno di quasi 2 settimane per capire veramente come erano andate le cose a Bengasi. Ma la parola e l'espressione attacco terroristico fu usata praticamente subito. Ecco, la questione del fact-checking, così iniziamo ad approfondire anche qualcosa, Francesco. I nostri ascoltatori forse lo ricorderanno, se non lo ricordano era la seconda o la terza puntata di Voto Antonio che abbiamo ospitato Fabio Chiusi, e con lui parlavamo proprio di questo elemento, insomma, il controllo in tempo reale dei fatti, che con la rete è diventato possibile. Ormai ci sono grandi mezzi di informazione, penso al New York Times per esempio, ma anche alla Associated Press, che hanno delle strutture che durante i dibattiti si occupano esattamente di questo, di controllare se le affermazioni fatte dal presidente o dal candidato repubblicano rispondano a verità. Qua diciamo una sorta di fact checking in tempo reale, e però c'è l'esigenza forse di qualcosa di più strutturato. Sì, anche perché abbiamo capito che funziona e che è molto utile soprattutto per gli elettori, perché poi durante, lo vediamo anche in Italia durante i talk show, che i politici tendono a usare i dati come delle armi e a tirarsele l'uno contro l'altro e dicendosi lei ha torto su questo, lei sta citando il dato sbagliato, e lo spettatore non sempre ha gli strumenti per andare a sapere chi dei due aveva ragione o no. Poter fare un fact-checking live, quindi poter immediatamente, in diretta, dire no, quel dato è falso, oppure quel dato è fuori contesto, quello lì invece è vero, aiuta moltissimo ad avere in generale, non solo in quella circostanza, ma in generale un dibattito più sano, guidato dai fatti prima che dalle opinioni. Lo fanno molte testate in America durante questi dibattiti e si sta parlando, per quanto sarà sicuramente complicato, di introdurlo in maniera un po' più incisiva durante il dibattito, cioè non lasciare che questo fact-checking sia limitato, diciamo, agli spettatori, è fruibile solo dagli spettatori, ma che possa avere un ruolo durante la discussione, come è successo in questo fuori programma che abbiamo ascoltato. In questo caso un fuori programma, ma appunto renderlo strutturale, cioè avere una struttura di fact-checking che consenta magari allo stesso moderatore, no, di intervenire. Sì, intervenire e dire no, ci spieghi meglio questa cosa che hai appena detto, perché i dati dicono un'altra cosa, per esempio. Rischia di essere devastante una cosa di questo. Sì, per parecchi politici potrebbe essere una sfida, diciamo, notevole. Voglio parlare anche con te, Francesco, di un'altra questione. Il fatto che questa trasmissione si occupi di internet, social media e politica non vuol dire che qualche domanda non ce la si ponga. Ossia, che importanza veramente questi abbiano nell'ambito delle decisioni politiche, delle decisioni di voto dei cittadini e dell'orientamento dei cittadini, perché a volte chi si trova in questo mondo tende un po' a percepire come se quello fosse l'unico mondo. In realtà non è così, in realtà forse alla fine è la TV ancora che orienta in maniera massiccia. La TV orienta sicuramente in maniera massiccia, non solo perché, come nel caso di questo dibattito, ha il potere di far assistere un numero vastissimo di persone a un evento e quindi di coinvolgerle tutte, ma anche perché è il principale mezzo di informazione delle società. Il punto è che i giornalisti, gli stessi che fanno la TV, che fanno i giornali, sono quasi tutti ormai, specie negli Stati Uniti, su Twitter e sui social media, e quindi rischiano di pensare che quelle opinioni lì siano le opinioni della società in generale. Scrivere i loro articoli, preparare i loro servizi di conseguenza, portarli sulla TV e a quel punto fare arrivare alla società, diciamo in generale, uno sguardo che non sempre è esattamente allineato a quello che è la società reale, ma che è lo sguardo di una porzione di società. Sappiamo che poi è mediamente, diciamo, più istruita, mediamente più a suo agio con la tecnologia e i nuovi media, e che quindi è uno sguardo parziale. Naturalmente è uno sguardo parziale, questo però rischia di avere alla fine un effetto perverso, nel senso che il giornalista si guarda il dibattito leggendo i commenti sui social network, si convince che il dibattito sia andato in una certa maniera, magari lo scrive e poi riporta che il dibattito è andato in quel modo, orientando a sua volta la discussione, altri pezzi e l'opinione pubblica. Anche perché poi quello che succede dopo un dibattito è che se un dibattito viene vinto viene perso, il fatto che se ne parli per 2-3 giorni, quello spesso fa più male a un candidato, incide più sulla campagna del dibattito stesso. Quando Obama ha perso il primo dibattito, più che quei 90 minuti, quello che l'ha danneggiato sono stati 3 giorni di tutti i media americani a parlare del fatto che Obama avesse perso e che cosa era successo e cosa aveva fatto Romney per rimontare. Spesso può capitare che queste conclusioni siano errate, anche perché nel valutare un dibattito molti di noi tendono a vedere soltanto quale candidato ha detto le cose che più ci convincono, quale candidato ha detto le cose che ci piacciono di più. In realtà non è soltanto quello, non vince il dibattito il candidato che è più d'accordo con te, vince il dibattito il candidato che si mostra più sicuro, che si mostra più, che ha gli argomenti più efficaci, che risponde meglio alle critiche. E questo non è facile da capire, perché poi tendiamo un po' a identificarci un po' tutti col candidato che più ci sembra vicino a noi. Grazie a Francesco Costa per questo punto, e sarà un punto probabilmente da approfondire, lo speriamo, anche per il futuro e per il dibattito italiano naturalmente. Grazie dunque a Francesco Costa, giornalista del Post, www.ilpost.it, poi là trovate anche tutti i dettagli su di lui. Noi chiudiamo qui questa puntata di Vota Antonio. Vi ricordo ancora i nostri contatti: siamo su Twitter Vota Antonio R24, la pagina Facebook è Vota Antonio R24, anche questa potete scriverci, Vota Antonio @radio24.it. trovate anche me su Twitter, sono Simone Spezia. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, una buona giornata da Simone Spezia. Italiani!